Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Questo è il secondo appuntamento di questo inizio, diciamo, degli appuntamenti, dei lavori, insomma, che abbiamo deciso di fare come centro di documentazione e archivio storico della Viscosa. Niente, farò un quadro di quelle che sono le intenzioni, visto che l'altra volta abbiamo un po' raccontato da cosa nasce questo progetto, ovvero l'archivio, la volontà di fare un centro di documentazione in questo luogo, la Casa del Parco, dentro questo parco conquistato, insomma, per fermare una speculazione edilizia. È un percorso ancora tutto in corso, visto le mire ancora speculative sull'area. E mentre oggi, insomma, così vi presentiamo un po' le intenzioni che ci sono, oltre seminari, incontri di questo tipo, di un approfondimento storico che parte dal territorio e poi dà, insomma, così una visione d'insieme della città e di quello che è stato, insomma, lo sviluppo di questo paese nel Novecento. Insomma, a parte questi tipi di appuntamenti, ci saranno, insomma, in programma dei convegni, qualcosa di più strutturato, insomma, a livello tematico, nonché una grossa, insomma, importanza la diamo agli aspetti didattici rivolti alle scuole del territorio. E sono in programma e sono stati anche così affrontati in questi mesi, e così prendendo come eredità un percorso che è iniziato in realtà da 15 anni, insomma, più o meno, con la Fabbrica della Memoria e Roots, due progetti, insomma, uno all'interno dell'altro, che avevano proprio come diciamo, obiettivo quello di far conoscere ai giovani, i ragazzini o, insomma, gli adolescenti dei quartieri periferici la storia che li riguardasse, insomma, quella, la storia che poi si studia sui libri di storia, sui manuali di storia, ma che parte poi da vicende molto vicine alla storia di ognuno. Questo, insomma, in particolare ci siamo soffermati sulla nascita dei quartieri come il Prenestino, il Pigneto, tutta Roma Est, nonché poi ci si è allargati a tutta la città e anche, insomma, alla provincia di Roma, e riconoscere poi in quelli che sono stati insomma, le vicende delle proprie famiglie, così come la casa dove si abita, la scuola dove si va, all'interno, insomma, di quello che è insomma, uno sviluppo storico che ci passa dentro la prima, la seconda guerra mondiale, insomma, il dopoguerra, il boom economico, la nascita dei quartieri e quant'altro. Ed è proprio questo un po' il senso del centro di documentazione, può riportare all'interno, insomma, della quotidianità quella che sono le ricerche storiche e farle sentire proprie, riconoscersi in quello che si va tracciando. Così come, insomma, l'idea è quella di sviluppare qui una sorta, insomma, di, oltre di centro di documentazione, anche di una esposizione, non la chiamerei museo, insomma, proprio qualcosa che cambia, insomma, con i contributi progressivi e non è qualcosa di cristallizzato. Ecco, questi sono un po' gli obiettivi che ci poniamo e appuntamenti come questi servono proprio per dare, insomma, le direttrici. E quindi, siccome l'altra volta ho parlato molto, questa volta chiudo qui, insomma, Carmelo introduce, diciamo, la giornata. Mi dispiace, Carmelo, ma toccherà ancora a te questa incombenza, e niente, sarò qua poi. Bene, allora riprendiamo le giornate di studio. Da sabato scorso, dopo un quadro di riferimento perché noi dobbiamo parlare di questo territorio negli anni 30, quindi dopo un quadro di riferimento complessivo di tutta l'area, abbiamo iniziato a indagare in maniera più precisa sulle singole industrie, che ce n'erano parecchie su questo territorio. La professoressa Pagnotta ha parlato dell'Istituto Farmaceutico Serono, la dottoressa Conte e Tomolillo hanno parlato della Cisa Viscosa. Oggi, come seconda giornata, parleremo io della Pantanella, la dottoressa Pagnotta dell'ATAC e il dottor Villani parlerà della Breda. Quindi negli anni 30, tra le una delle più importanti società che stavano su questo territorio era appunto la Pantanella, o come meglio si chiamava, la società Mulini e Pantanella, il pastificio Pantanella, che era una società per azione con un capitale di 20 milioni e che stava all'inizio della via Casilina. Praticamente la localizzazione fuori Porta Maggiore, la Pantanella si trovava fuori Porta Maggiore ed era una delle fabbriche più importanti nel suo settore, cioè come industria alimentare era una delle più importanti non solo di Roma ma anche dell'Italia e addirittura dell'Italia meridionale. Infatti appartenevano all'azionariato della società altri mulini fuori regione. Ce n'era uno nelle Marche a Chiaravalle Centrale e altri due mulini importanti in Campania, nel Napoletano, a San Giorgio a Teduccio. Lo stabilimento di via Casilina era costituito da un pastificio, da un silos e un mulino. Ed era stato, quindi noi ci parliamo, sta pensando di essere negli anni 30. Quindi questo stabilimento era stato ristrutturato da poco. Nel 1926 la società aveva intenzione di fare una grande operazione di ristrutturazione e aveva presentato al Comune di Roma la domanda per fare un grande mulino di 10 piani, perché voleva avvalersi di una tecnologia all'avanguardia per quei tempi che non c'era eguali in Europa, ma soltanto negli Stati Uniti. Cioè un mulino che funzionasse con i primi 7 piani, dove c'era proprio la parte del mulino, e i primi 3 piani praticamente invece come deposito. Cioè quindi che funzionasse per gravità. Era un progetto molto ambizioso che avrebbe portato la produzione dello stabilimento a valori molto alti, però siccome il piano regolatore prevedeva per quell'area, l'area della, pur essendo un'industria, non stava in una zona industriale, perché per il piano regolatore di Roma la zona industriale, voi sapete, era all'Ostiense. Il piano regolatore li prevedeva a mulini, per cui la commissione urbanistica non se la sentì di dare una deroga e quindi questo bel progetto, che sarà appunto innovativo perché avrebbe potenziato molto la società, non fu approvato. Però siccome nel 1928 la società Pantanella aveva il mulino suo più importante al Circo Massimo, per questo si chiamava Pantanella, perché lì c'era il vero mulino Pantanella, e dovendo dismetterlo perché con accordi con il governatorato i locali di via dei Cerchi servivano all'amministrazione comunale per fare un museo, per intenderci sono i locali dove attualmente c'è il servizio elettorale. Quindi dovendo dismettere lo stabilimento di via dei Cerchi e quindi dovendo assolutamente andare a via Casilina, che sarebbe rimasto l'unico stabilimento in carica alla società, e non avendo avuto dall'amministrazione comunale l'autorizzazione a fare questo nuovo mulino di 10 piani, si accontentarono a fare una semplice sopraelevazione del mulino esistente e costruendo anche accanto un pastificio. Il pastificio è importante perché praticamente viene, senza raccontare adesso la storia della sua progettazione, nella sua realizzazione finale viene costruito su progetto di Pietro Aschieri. Pietro Aschieri è un famoso architetto che mediava tra le istanze dell'Accademia e la novità del razionalismo italiano, talmente importante che il regime poi si approprierà di questa figura, per cui nei convegni internazionali che si facevano in Europa, e anche Roma è stata sede di uno di questi, il pastificio realizzato da Aschieri veniva portato come una cosa decisamente importante. Per quello che riguarda, dicevamo che appunto come per la Serono e così come per la Viscosa, anche la Pantanella era una società di livello nazionale, aveva un azionariato di tutto rispetto, era passato dal Banco di Roma che l'aveva diciamo messo in piedi all'amministrazione speciale della Santa Sede e alle assicurazioni generali, e aveva avuto, anzi in questo periodo ha, come presidente della società Filippo Cremonesi, che è fratello del cardinale Cremonesi, vabbè, ma non è questo importante. Non solo è senatore del Regno, sindaco di Roma, lo era stato dal giugno 22 al marzo 23, ma è anche il primo governatore della città nell'ottobre del 20, dal 25 al dicembre 26. Quindi questo fatto vuol dire che la società aveva degli agganci molto molto forti col regime. Lo stabilimento di Via Casilina, praticamente, pur essendo stato ristrutturato in maniera quasi ex novo, era uno stabilimento di vecchio impianto, perché è stato il primo insediamento, diciamo, di una certa importanza che si è fatto nell'area Pigneto-Prenestina, Casilino-Pigneto-Prenestina, a partire dal 1870. Addirittura nel 1871 due industriali piemontesi, si chiamavano Ducco e Valle, decidono di impiantare fuori Porta Maggiore uno stabilimento a vapore. I mulini fino a quel momento lì, diciamo, siccome utilizzavano la forza idraulica dell'acqua, si localizzavano vicino alla fonte di energia. La novità del vapore consente una localizzazione di tipo diverso, per cui come primo atto loro, proprio nella parte fra la Casilina e la Prenestina all'inizio, in questo lotto di terreno, insediano questo mulino a vapore, che addirittura è innovativo. E nell'area romana Michele Pantanella, che è, diciamo, l'industriale del pane di cui tutti conosciamo il nome, tant'è vero che anche adesso lo chiamiamo così, che aveva il mulino invece fuori al Circo Massimo in via dei Cerchi, farà il suo mulino a vapore ben 10 anni dopo. Quindi Ducco e Valle, col mulino nostro, dell'area nostra, di via Casilina, sono stati innovativi. Come è successo il passaggio poi dalla Ducco e Valle alla Pantanella? A metà degli anni 80 dell'Ottocento si era costituita il Banco di Roma. Il Banco di Roma era un istituto di credito i cui referenti più importanti facevano parte dell'aristocrazia papalina, perché dopo il 1870, con l'anatema del Papa che non bisognava collaborare con i nuovi, con i piemontesi che avevano occupato la città santa, praticamente si erano un po' mossi in disparte. Nel decennio successivo anche loro ovviamente si danno da fare e quindi decidono di dedicarsi ai servizi pubblici e quindi di dedicarsi a, siccome da poco c'erano state delle novità legislative sulla imposta della macina, insomma, pensavano che avrebbe avuto importanza per una città come Roma, che era diventata capitale della nazione da poco e la cui popolazione si incrementava di mese in mese, volevano entrare in questo campo. Allora, poi invece di fare un nuovo mulino, prima contattarono Pantanella, che aveva il suo mulino a Via dei Cerchi, però Pantanella aveva delle pretese enormi, voleva un sacco di soldi, per cui loro, più modestamente, andarono dai Ducco e Valle, invece che avevano il mulino nostro qui su Via Casilina. Loro ebbero pretese non eccessive, quindi la società romana acquisisce il mulino di Via Casilina, quello di cui stiamo parlando. Questo a metà degli anni Ottanta. A metà degli anni 90, sempre dell'Ottocento, il Banco di Roma completa la sua operazione perché nel frattempo Pantanella è caduto in disgrazia, perché con lo scandalo della Banca Romana lui ha un debito pazzesco con le banche, e il Banco di Roma riesce, diciamo, a impossessarsi anche dei mulini di Pantanella con pochi soldi. Quindi si crea una nuova società, si chiama Magazzini Generali e Pastificio Pantanella, che comprende tutti i mulini importanti che sono in quel momento a Roma. Uno su Via Flaminia, quello di Via dei Cerchi di Pantanella, e il nostro qui di Via Casilina. Quando poi, nel 1928, come dicevo, lo stabilimento di Via dei Cerchi viene dismesso, resta soltanto un mulino, uno stabilimento, che è questo di Via dei Cerchi, che poi da Magazzini Generali, Mulino Pantanella e Pastificio Pantanella, si chiamerà tout court Pantanella. Quindi tutti quanti chiamiamo Pantanella questo mulino, che i Pantanella non hanno mai visto, anzi era la concorrenza di Pantanella. È un po' quello che è successo con questa fabbrica, con la viscosa, Cisa Viscosa, che la Cisa Viscosa, che ha messo in piedi la fabbrica di cui stiamo parlando, era la concorrenza della Snia Viscosa, anzi la Snia Viscosa era quella più importante, si è sempre chiamata, anche negli anni 50, Viscosa, Cisa Viscosa, oggi, per motivi che sarebbero un po' da indagare, diciamo, questa fabbrica si chiama Snia Viscosa. Quindi questo è fare un esempio, come se alle volte i nomi passano da un campo all'altro per motivi particolari, e questo spesso crea degli equivoci. Allora, è chiaro che l'entrata in scena del Banco di Roma nell'area dei mulini dà una forte spinta allo sviluppo dell'attività. Quindi infatti lo stabilimento di Via Casilina viene molto potenziato, conquista i mercati e dicevo, appunto, era fra gli stabilimenti più importanti d'Italia e sicuramente uno dei più importanti dell'Italia meridionale. Come le maggiori fabbriche della capitale, anche che, diciamo, che assecondano le direttive del regime, anche per le maestranze della Pantanella sono attivate delle provvidenze speciali per i lavoratori, per le maestranze. Ne voglio ricordare alcune: c'era la colonia marina per i figli degli operai, e conferivano una dote alle figlie che nasciture delle operaie. E anche come per la viscosa, anche loro avevano lo spaccio di generi alimentari. Mentre all'inizio, quando si è formata la società che comprendeva i diversi stabilimenti, lo stabilimento di Via dei Cerchi era rimasto quello più importante, che aveva il maggior numero di operai, quasi, diciamo, il 70% stavano in Via dei Cerchi e il 30% stavano in quello di Via Casilina. Quando, diciamo, quello stabilimento di Via Casilina resta l'unico, praticamente tutti gli operai, ma non erano comunque un'industria di media grandezza, non arrivava certamente ai 3.000 operai della viscosa, ma ne avevano comunque sempre 400-500. Durante il bombardamento, adesso breve cenno fino all'attualità, ma veramente pochi cenni, durante il bombardamento del luglio del 43, lo stabilimento della Pantanella, che era dichiarato obiettivo sensibile da parte delle forze armate alleate, viene bombardato in maniera pesante, moltissimi danni, e il pastificio di Aschieri viene distrutto in buona parte. Così il dopoguerra sarà un rilancio lento. Nel 49-50 finalmente viene ristrutturato, rifatto un nuovo pastificio con un ampliamento. E viene anche fatto la Torre dei Mulini, quello che attualmente vedete, diciamo, scendendo dalla tangenziale subito sulla destra, che chiude, diciamo, l'area della Pantanella. E quindi con la ristrutturazione Pantanella ritorna a essere una delle società più importanti nel campo delle industrie alimentari. Negli anni 70 comincia la crisi e in breve tempo porterà alla dismissione dello stabilimento, che poi per passaggi proprietari sarà al praticamente passerà alle Condotte d'Acqua, poi al gruppo Genghini, sino alla società Acqua Pia, antica Acqua Marcia, che nel 1987 avvia il recupero dell'area. In quegli anni era stato pesantemente occupato da extracomunitari ed era una situazione di forte degrado. Adesso è stato sottoposto a una ristrutturazione con una nuova rifunzionalizzazione. Hanno cercato di recuperare un pochino le architetture che, come dicevo, sono su progetto di architetti di valore, però a differenza di quello che un po' si sta facendo con la Serono, la Pantanella, il quartiere ne ha beneficiato poco, perché si trova in una situazione un po' marginale rispetto al quartiere, perché è stretta tra la ferrovia, tra la ferrovia, via Casilina, e quindi la cosa più bella che hanno messo è un bingo, che credo che non è che se ne sentisse l'occasione. Comunque, se vi capita, fateci un salto all'interno, perché i manufatti sono stati recuperati, la maggior parte sono stati poi trasformati a residenze. Bene, io ho finito. Sì, allora, prima di passare la parola alla dottoressa Pagnotta, una cosa, rispetto a quest'ultimo scenario, ovvero la riqualificazione da parte della società, com'è la Acqua Marcia, appunto. Possiamo dire, appunto, un'operazione speculativa. L'occupazione da parte negli anni 80-90 da parte, insomma, di persone che cercavano un rifugio in un momento, insomma, di forte emissione di immigrazione nella città, forse è il primo esempio in quel caso. Fu poi un processo molto, insomma, forte dal punto di vista sia di quello che ha creato come immaginario, ma anche di scontro, insomma. Per andare via da lì ci sono state molte trattative, nonché forti tensioni. E possiamo anche dirlo, l'operazione gestita dall'amministrazione comunale da ogni punto di vista è stata abbastanza fallimentare per quanto riguarda la pianificazione della città e la questione del, insomma, di chi ci abita e i servizi che si aveva bisogno in quel momento. Al posto del bingo ci doveva venire una grande, bellissima biblioteca. Ecco, questo è un po', ci dà un po' la misura di come è stata gestita tutta l'operazione. E quegli appartamenti che poi sono stati sponsorizzati come loft, insomma, sono stati venduti a caro prezzo. Questo è la Serono, poi ne potremmo anche parlare, ma non mi dilungo e lascio la parola alla dottoressa. L'ADAG. E un'ultima semplicemente cosa, da quando dicevo, appunto, riconoscere la storia, quella che è la storia che si studia sui libri, si è visto, insomma, Carmelo Severino ha parlato di bombardamenti, ce ne sono stati qui, ce ne sono stati all'ADAC, come vedremo, e ecco, quella è memoria storica che sta nella memoria di molte case, e, insomma, che vengono raccontate, tramandate, insomma, come ricordi, e sono momenti forti che poi, ecco, si ritrovano poi nelle ricerche, perché si parla di obiettivi sensibili per un conflitto bellico dove continuava una produzione come qui alla Viscosa, che non si è mai fermata la produzione, come il deposito ADAC e quant'altro. Allora, io, diciamo, non vi racconto la storia dell'azienda, dell'ATAC, che comunque è una storia di tutto rispetto, molto interessante, perché è al tempo stesso storia della città di Roma. Vi racconto dei pezzi storici che riguardano l'ATAC e questa zona. Però diamo velocemente il quadro di evoluzione dell'azienda dei trasporti pubblici romana, perché così riusciamo a collocare meglio le cose che io vi dico relative a questo quadrante. L'azienda nasce nel 1911 dopo il referendum del 1909 sulla municipalizzazione del servizio dei trasporti e del servizio di distribuzione dell'acqua, voluta dall'allora giunta Nathan, una giunta che oggi definiremo di sinistra e progressista. Quando nacque ebbe pochissime linee, cominciò con due linee, continuò ad averne poche negli anni successivi e invece ne ebbe un certo numero nel 1920, quando vi fu la municipalizzazione completa, cioè furono assorbiti tutti i materiali e le linee della precedente azienda di trasporto, che era una privata, la Società Romana Tramvai ed Omnibus SRTO. Nel 30, durante il fascismo, si ha quella che fu chiamata la riforma del trasporto pubblico, cioè il tram fu tolto dal centro storico e nel centro storico fu lasciato soltanto l'autobus. Nel 55 vi fu l'apertura della metropolitana B, quella che va all'Eur, che era iniziata nel 40, insomma, diciamo all'inizio degli anni 40, perché doveva essere pronta per l'esposizione universale del 42, per servire quel quartiere che era il quartiere dell'esposizione che si stava costruendo. Per quanto riguarda gli anni 50 e soprattutto gli anni 60, dobbiamo dire che sono stati gli anni in cui l'ATAC, soprattutto il decennio 60, ha smantellato la sua rete tranviaria e la sua rete filoviaria. La sua rete filoviaria definitivamente. Il filobus è arrivato, è ritornato in città con la gestione di Walter Tocci alla fine degli anni 90. Fu completamente smantellato. La rete tranviaria è stata grandemente smantellata, però le circolari e alcune altre linee sono rimaste. Cambiamo microfono. Allora, ricordiamo anche le denominazioni dell'azienda. L'azienda all'inizio si è chiamata Azienda Tranvie Municipali, ATM, fino al fascismo, che ha tramutato il nome in Azienda Tranvie ed Autobus del Governatorato, perché il Governatorato era la forma amministrativa che il Duce volle per la capitale, e poi con la caduta del fascismo è diventata la denominazione, è diventata ATAC, così come noi oggi la conosciamo. Si tratta di un'azienda, una grande azienda, e come qualsiasi grande azienda di trasporti di una grande città ha diverse localizzazioni sul territorio urbano, però tra queste localizzazioni ovviamente ha un suo cuore, e il cuore organizzativo dell'ATAC è sempre stato qui nell'area prenestina. In realtà, siamo più precisi, è stato qui dal 1920, da quando è avvenuta la municipalizzazione completa e quindi è diventata una grande azienda, perché prima il suo cuore organizzativo, il suo piccolissimo cuore organizzativo, perché erano pochissime linee, era Santa Croce in Gerusalemme. Forse ricorderete che prima della giunta Rutelli, lì a San Giovanni, dove ora lungo le mura c'è un parco, c'era un deposito dell'ATAC. Quello è stato il primo deposito dell'azienda pubblica, che poi è stato smantellato per farne un parco. Quindi quello era il piccolo cuore quando l'azienda era piccolissima. Allora, queste localizzazioni dell'ATAC che sono qui, vediamo intanto gli stabilimenti come sono, voi li conoscete perché ci vivete, e sono innanzitutto il deposito di Porta Maggiore, che è all'incrocio tra l'inizio di via del Pigneto e via Prenestina, e si tratta del deposito tranviario più antico della città, viene addirittura dall'Ottocento, perché l'azienda pubblica lo incamerò con le linee e tutto il materiale della SRTO. Quando lo incamerò nel 1920, lo ristrutturò, aumentò i binari all'interno, li coprì, fece in modo che fossero adatti alla lavorazione delle macchine con più efficacia, con più efficienza, e creò poi all'interno anche i circoli binari per poter manovrare meglio le vetture. Per quanto riguarda gli stabilimenti Prenestina, questi sono dirimpettai al deposito di Porta Maggiore, voi li conoscerete sicuramente perché qui abitate, e furono acquisiti nel 1925, quindi poco dopo il deposito chiamato di Porta Maggiore, a via del Pigneto, e subito ne fu definito un progetto di ristrutturazione perché dovevano divenire le grandi officine dell'azienda. Però poi l'azienda non ebbe i soldi e quindi questa trasformazione, che doveva avvenire in 4-5 anni entro il 1930, in realtà durerà tutto il decennio degli anni 30. Nell'area allora, negli anni 30, vi erano più fabbricati. Il più grande fabbricato era quello dove vi era l'officina vera e propria e dove avveniva quindi la manutenzione e la lavorazione delle macchine. E vi era la lavorazione della meccanica, ma anche la lavorazione della carrozzeria, quindi vuol dire che oltre alle figure lavorative dei meccanici vi erano anche i vetrai, i lamieristi, gli scoccai, quindi tutti quelli che si occupavano della carrozzeria dell'esterno della vettura. E facciamo soltanto un piccolo accenno: l'ATAC, dal punto di vista ingegneristico, anche se noi oggi la conosciamo come un'azienda disastrosa perché i trasporti a Roma sono sempre stati disastrosi, però negli anni 30, dal punto di vista dell'ingegneria delle vetture, l'ATAC è stata un'azienda all'avanguardia. Ci sono state delle innovazioni tecnologiche che durano tuttora, insomma dei pezzi di ingegneria che portano il nome di alcuni ingegneri che appunto erano dell'azienda. E tutto questo veniva fatto qui, in queste officine che sono qua localizzate. Quando fu inserito nella maglia della rete il filobus nel 1937, le officine furono adattate per accogliere anche la lavorazione del filobus, e quando con la riforma del 1930 fu potenziato il parco degli autobus, ovviamente furono adattate anche ad accogliere la lavorazione degli autobus. Per quanto riguarda gli autobus, la lavorazione avveniva per le piccole cose, per le piccole riparazioni, anche nelle rimesse, mentre invece le grandi lavorazioni, quando si rompeva un qualche cosa di significativo o la grande revisione annuale, veniva comunque fatta qui anche per l'autobus. Diciamo qualcosa dei tranvieri. Perché è molto interessante la storia dei tranvieri romani, perché è poco studiata in generale la storia dei tranvieri italiani. I tranvieri romani sono stati una parte importante del movimento operaio romano e anche una parte importante del movimento operaio dell'intero paese. E l'episodio più significativo che vi voglio raccontare della reattività politica, sindacale di questa categoria riguarda un episodio che si svolse sulle strade del centro storico, ma con tram che partivano proprio da qui, quindi con lavoratori, personale viaggiante, ma anche operai che lavoravano effettivamente e concretamente qua, sia al deposito che alle officine. Ed è un episodio importantissimo del Biennio Rosso 1919-1920, lo conoscerete come un biennio di grande aggressione sia da parte delle forze dell'ordine che da parte di forze politiche molto ostili al movimento operaio, quindi di grande aggressione e di grande violenza nei confronti del movimento operaio organizzato e sindacalizzato. Siamo nel 1920, esattamente nell'estate, nel luglio del 1920, E ci fu una lunghissima vertenza dei ferrovieri secondari, delle linee ferroviarie secondarie, per avere dei miglioramenti. Siccome era un momento di grande mobilitazione operaia, anche i tranvieri dell'ATAC solidarizzarono con i ferrovieri delle secondarie e quindi scioperarono, alla fine della loro vertenza, scioperarono con loro. Uno sciopero che durò 6 giorni, quindi la città fu bloccata per 6 giorni. E alla fine di questo sciopero, per 3 giorni, si verificarono delle, diciamo, ondate di violenza contro i tranvieri romani ad opera dei nazionalisti. E vi fu anche l'incendio della tipografia dell'Avanti. Allora, vediamo la cronaca, perché è interessante vedere con precisione la violenza che si scatenò contro i tranvieri romani. Quello che la fece scatenare, la scusa che fu utilizzata, fu perché i tranvieri, terminato lo sciopero e ripresa l'attività nel giorno stesso in cui la riprendevano le ferrovie secondarie, seguendo quello che facevano i ferrovieri delle secondarie, che avevano montato le bandiere rosse sulle locomotive, i tranvieri ATAC uscirono con i tram ornati di piccole bandiere di carta rosse. E questo quindi provocò la reazione violenta. Quindi uscirono la mattina insomma, la cronaca riguarda 2 giorni, il 20 e il 21, mattina e pomeriggio di tutte e due le giornate. I tranvieri uscirono dal deposito di Porta Maggiore e in parte minore anche dal deposito di Santa Croce in Gerusalemme, e quando arrivarono nelle vie più centrali una folla di nazionalisti li aspettava e aggredì i tram. Molti tranvieri, insomma una parte riuscì a rientrare ai depositi per sottrarsi all'aggressione, e una parte invece non poté fare altro che lasciare lì le vetture e fuggire a piedi per ritirarsi nei depositi. Alcuni nazionalisti, che evidentemente sapevano manovrare le vetture, salirono sulle vetture e le guidarono nella città, tanto che l'azienda fu costretta a togliere la corrente elettrica su tutta la rete per bloccare queste persone che guidavano i tram. Rientrati, quelli che erano rientrati con i tram e che erano gli altri che erano rientrati a piedi, con gli operai del deposito e delle officine si organizzarono e quindi uscirono con altri tram armati di bastoni e armati di strumenti di lavoro per potersi difendere. A questo punto gli scontri maggiori avvennero a Piazza Venezia, dove intervennero le forze dell'ordine per dividere le due grandi fazioni. Ma gli scontri ci furono in tutto il centro storico e per tutti gli anni 30, insomma gli anni di grande controllo del regime, di grande controllo sociale di quello che avveniva nella città, questo è stato il momento più difficile per gli anni 30, scusate, per gli anni 20 e anche considerando gli anni dell'inizio del regime, quindi la seconda metà degli anni 20. Questo è stato il momento più difficile di rivolta sociale. Il momento in cui le questure sono state più in difficoltà, perché essendo gli scontri in tutto il centro erano coinvolte più commissariati locali. La questura, vedendo gli scontri, aveva predisposto forze dell'ordine anche intorno alla tipografia dell'Avanti. Perché evidentemente questa voce della volontà di andare ed entrare nella tipografia dell'Avanti era circolata, però insomma non aveva fatto bene il suo lavoro, per cui alcuni nazionalisti si recarono, entrarono con facilità nella tipografia dell'Avanti in via della Pilotta e le diedero fuoco. Quindi l'Avanti non poté uscire per diversi giorni e non poté uscire stampato nella propria tipografia, ma trovò un'altra tipografia, quella del giornale Epoca, che lo accolse per la stampa. I nazionalisti cercarono anche di entrare alla sede e tipografia che erano insieme dell'Epoca, però lì i tipografi avevano avuto il tempo di organizzarsi e riuscirono a non farli entrare. Tutto questo il 20. nella giornata del 20, nella giornata del 21 era stato per la giornata del 21 era stato indetto lo sciopero generale della Camera del Lavoro, proprio perché c'erano stati questi disordini molto gravi e quindi tutto il movimento operaio romano era stato coinvolto. E all'uscita dei tram dai depositi una folla di operai vigilò che i tram potessero uscire senza alcuna aggressione, perlomeno nel primo tratto che i tram percorrevano. Ma di nuovo vi furono delle aggressioni. I tram rientrarono, riuscirono a fine serata, quando lo sciopero generale si concludeva, e un'altra volta vi furono aggressioni per tutto il centro, e alle 7:30, dopo mezz'ora dall'uscita dei tram, l'azienda si vide un'altra volta costretta a togliere l'energia elettrica per non far circolare le vetture, per evitare che queste finissero nelle mani dei nazionalisti. Le vetture furono poi recuperate a notte avanzata dagli ispettori, o insomma dai lavoratori stessi dell'azienda. Quindi insomma due giornate di grandi disordini cittadini. Questa grande reattività dei tranvieri fu fatta loro pagare dal fascismo poco dopo l'andata al potere. Vi furono dei provvedimenti nazionali, così come vi furono nei confronti dei ferrovieri, vi furono anche nei confronti dei lavoratori dei trasporti urbani, provvedimenti che riguardavano tutte le città, ma che in realtà furono fatti per colpire proprio i lavoratori dell'azienda di Roma, che furono licenziati in numero di ben 1.500 in seguito a questi tre provvedimenti che furono emanati, il primo all'inizio del 1923. E quindi questa localizzazione in questo quartiere, nella sua memoria, deve avere anche questa grande reattività dei lavoratori dell'azienda pubblica. Per quanto riguarda il fascismo, nella relazione che è stata svolta la volta scorsa sulla Viscosa, vi è stato raccontato delle linee che portavano i lavoratori della Viscosa perché arrivassero in tempo. Queste linee ci furono finché non fu ben organizzata la maglia dei trasporti, poi quando insomma fu ben organizzata la maglia dei trasporti, l'ATAC non offrì più questo servizio alla Viscosa. Ma c'è da dire anche altro per gli anni del fascismo relativamente ai lavoratori e a questa zona. Il dopolavoro ATAC. Voi sapete che negli strumenti che si diede il fascismo per costruire il consenso dei cittadini, un grande strumento fu quello dell'opera nazionale dopolavoro, per cui in tutte le fabbriche, ma non soltanto i luoghi produttivi, furono organizzati dei dopolavoro. E a Roma il dopolavoro ATAC, che fu organizzato nel 1925, fu il più importante della città, perché chiaramente l'azienda era una grande azienda ed era una grande azienda molto visibile, una grande azienda che era visibile in periferia come era visibile nella parte centrale. Abbiamo detto che il fascismo represse i tranvieri romani, abbiamo detto che colpì i ferrovieri in generale e in generale tutti i lavoratori del trasporto pubblico, però al tempo stesso i ferrovieri e i lavoratori del trasporto pubblico erano una delle categorie lavorative più importanti per il fascismo, per cui furono delle categorie che nella repressione generale del movimento operaio però furono guardate e osservate con più attenzione ed ebbero degli elementi più positivi rispetto ad altre categorie lavorative, per cui il dopolavoro ATAC fu molto ben organizzato, vi erano gli spacci aziendali, vi erano gli ambulatori pediatrici, uno era proprio qui alle officine Prenestina, e vi erano corsi per il miglioramento delle condizioni culturali dei lavoratori dell'azienda, e vi era poi anche una scuola per ferrotranvieri per i giovani dai 14 ai 16 anni, figli dei dipendenti dell'azienda, e questa scuola si teneva proprio qui alle officine Prenestina. i ragazzi avevano l'insegnamento tecnico che serviva per lavorare in azienda, avevano anche un minimo di insegnamento di cultura generale, ma soprattutto venivano ben inseriti in tutta quella che era l'organizzazione della ritualità fascista, che doveva servire per tenere i lavoratori concentrati e coesi corporativamente tra di loro e distoglierli da qualsiasi altra rivendicazione, e che serviva anche, insomma, per curare il consenso dei lavoratori, in questo caso il consenso dell'ATAC verso il regime. Abbiamo detto le officine generali come luogo di spaccio di generi di consumo, ma lo spaccio era anche al deposito di Porta Maggiore. E poi soprattutto insomma, ricordiamo anche che non è proprio in questa zona prenestina, ma è subito dall'altra parte, quindi comunque vicino a quest'area che era il cuore dell'azienda in quegli anni e lo è tuttora, la casa fascista del Tranviere, che era in via Grattoni, che è, diciamo, nell'area di San Giovanni, quindi subito al di là delle mura, e che fu inaugurata nel 1925 proprio da Benito Mussolini. Nella costruzione del consenso da parte del fascismo possiamo collocare anche la costruzione di case per i tranvieri romani, e per quanto riguarda questa zona quindi ricordiamo i fabbricati che sono stati edificati lungo la via Prenestina ad opera di una cooperativa che in realtà esisteva già prima del fascismo, ma che poi durante il fascismo fu fatta propria dal regime. Quindi tutta questa grande attenzione da parte del regime ai tranvieri romani per curarne il loro consenso, ma se noi andiamo a guardare le fotografie delle visite delle personalità importanti del regime a Roma nel 41 e nel 42 che si svolsero qui alle officine prenestina, in particolare quella del governatore Borghese, vediamo che sono pochissimi gli operai che sono presenti. Vediamo tutto il grande salone delle officine che è quasi vuoto, quindi evidentemente nonostante questo grande impegno, però i tranvieri romani rimanevano allora contrari al regime. Ovviamente avendo avuto 1500 licenziamenti era un pezzo di movimento operaio particolarmente sensibile in senso contrario al fascismo. Sempre qui nelle officine prenestina si svolsero negli anni 30, vi dicevo prima, la capacità tecnica di questa azienda in quel decennio, diversi esperimenti di natura meccanica. Il regime, come anche il nazismo, ma anche altri paesi in Europa negli anni, sulla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, il fascismo perché aveva avuto le sanzioni economiche dopo la guerra di Etiopia, si trovavano in difficoltà per l'approvvigionamento dei combustibili che servivano per far muovere le vetture. E quindi un po' in tutta Europa c'erano sperimentazioni per la ricerca di combustibili alternativi e l'ATAC era molto impegnata in questo. Ora non vi sto a dire come li denominava e quali erano i componenti chimici che utilizzava in questi esperimenti. Ma in particolare fu utilizzato a Roma l'autobus a gassogeno, che i romani chiamarono l'autobus a carbonella, cioè un autobus in cui era stato messo un bruciatore dietro e la fonte d'energia era quella che si scaturiva dalla combustione di ciocchi di legna. In realtà questi autobus a gassogeno non erano molto efficienti, si muovevano con molta lentezza, in particolare non riuscivano a fare le salite. Però questo fu, diciamo, l'elemento di questa sperimentazione che fu visibile ai romani, perché questi andarono su strada. E quando furono messi su strada furono grandemente pubblicizzati dal regime con una cerimonia a Piazza del Campidoglio, e quindi abbiamo delle belle foto di questi autobus a gassogeno con la statua a cavallo e dietro il Campidoglio. L'esperimento del gassogeno terminò con la fine della Seconda Guerra Mondiale, però comunque insomma ricordiamo che queste sperimentazioni si tennero qui alle officine prenestine. Seconda Guerra Mondiale e quindi bombardamenti e difficoltà. Ve lo dico molto rapidamente perché poi invece vi voglio raccontare degli anni 60, seppure siamo fuori dal quadro cronologico che ci siamo dati, però insomma c'è un fatto molto importante, direi il più significativo, che riguarda questa zona e quindi non posso non raccontarvelo. Durante la seconda guerra, con i bombardamenti, ovviamente furono colpite anche le officine centrali. Fu colpita tutta la rete tranviaria, tutta la rete, insomma gran parte della rete tranviaria, ma soprattutto insomma furono i danni causati dal bombardamento alle officine, perché danneggiarono tutte le vetture che erano ferme tra le officine e il deposito, scusate, tutte e due. E questa fetta di città fu anche la fetta di città che ebbe più problemi con il trasporto pubblico, perché all'epoca i due tram che portavano i cittadini di tutti questi quartieri lungo la via Prenestina e lungo la via Casilina erano il tram dei Castelli dall'altra parte sulla Tuscolana, le ferrovie vicinali e un tram che era qui sulla Prenestina. Con il bombardamento furono divelti i binari e quindi furono interrotte le comunicazioni con il centro. E quindi gli abitanti dei quartieri più distanti da questa qui, insomma, che è la zona più vicina al centro, dovevano percorrere diversi chilometri a piedi per potersi recare a prendere quelle linee che invece erano, diciamo, sopravvissute al bombardamento. In più l'autobus che c'era, che partiva da Casal Bertoni e arrivava fino alla Tuscolana, quindi unendo le quattro vie, era una linea che non era stata prevista con tante corse e con tante vetture e che quindi non ce la faceva a reggere il grande flusso di utenti che si generò subito dopo il bombardamento e anzi insomma che rimase per tutti i mesi successivi. Quindi questa fu la porzione di città che ebbe più problemi con lo spostamento con il mezzo pubblico dopo il bombardamento. Ma veniamo a quello che vi stavo annunciando relativamente agli anni 60. Vi ho detto prima all'inizio che gli anni 60 sono il decennio in cui l'ATAC smantellò le reti tranviarie e in cui la sua politica divenne, come poi è stata anche negli anni 70 e 80, una politica rivolta completamente all'autobus e in realtà molto poco rivolta all'autobus, perché la politica generale del trasporto cittadino fu una politica che invece pensava all'utilizzo della vettura privata. Si cominciò a tornare indietro da questo soltanto negli anni 80. E negli anni 60, a fianco a questa cattiva politica di utilizzo della rete tranviaria, perché questa veniva smantellata, vi era per l'azienda anche il problema del passivo del bilancio, un problema di vecchissima data che si era ingenerato sul finire della prima guerra mondiale, che quindi si portava avanti da decenni l'azienda. E nell'incapacità generale di amministrare l'azienda, ma di amministrare anche la città, da parte della giunta capitolina a guida democristiana di quegli anni, presero il provvedimento più sbagliato che potevano pensare, e cioè l'aumento delle tariffe. E fu rivolta urbana, proprio qui, lungo la via Prenestina, in questo quadrante della città. Alla mattina, all'uscita dalle vetture, i numerosissimi bloccarono l'uscita delle vetture e quindi si ingenerò tutto un lungo corteo di tram bloccati sui binari. Da qui fino al quarticciolo, con le forze dell'ordine molto impegnate perché si ingenerarono scontri molto rapidamente. Il giorno dopo l'unità riportò i numeri che vi leggo: 300 persone portate in questura, 72 denunciate, 15 arrestate. Possiamo immaginare che tutto questo avvenne anche grazie al supporto delle sezioni locali del Partito Comunista Italiano, che in questa zona era particolarmente organizzato. Il Popolo, giornale della Democrazia Cristiana, invece parlò di una manovra organizzata da agitatori comunisti. Il giorno dopo, l'organizzazione di questa che qui era stata una vera e propria rivolta urbana, si estese capillarmente sulla città e gruppi di operai bloccarono i trenini della Roma Ostia. Sui mezzi nel resto della città salirono gruppi di giovani delle organizzazioni di sinistra invitando la clientela, l'utenza, a non fare il biglietto come gesto di protesta. E nella città comparvero numerosissimi cartelli di protesta affissi sulle fermate. Le tariffe sono in stretto rapporto con la domanda di trasporto e dunque gli effetti negativi si videro immediatamente, perché sin da 5 giorni dopo diminuirono drasticamente gli utenti delle linee di trasporto, non soltanto dell'ATAC ma anche della Stefer, e per quanto riguarda queste ultime della Stefer a favore della Zeppieri, che era un'azienda privata che copriva gli stessi, in gran parte insomma, gli stessi quartieri che erano coperti anche dalla Stefer. Ma come dicevo prima, insomma, da questa politica non si tornò indietro in quegli anni, si tornò indietro soltanto negli anni 80. Chiudo dunque sottolineando, notando che se la storia dell'ATAC è la storia della sua città, cioè la storia di Roma, ed è una storia non soltanto aziendale, ma è una storia di lavoratori e di cittadini, perché vediamo insomma l'utenza che si rivolta, ancora di più è una storia di lavoratori e di cittadini in questo quadrante della città che ha accolto il cuore dell'azienda per buona parte del Novecento. Grazie, grazie. In effetti è storia proprio di qua che viviamo tutt'oggi. Le fasi, appunto, gli anni 80 e gli anni 90-2000 sono anche queste segnate da questa politica di dismissione e di privatizzazione. Le reazioni non sono altrettanto forti come c'è stata allora. Questo deposito, proprio nei primi anni 2000, è stato sotto diciamo, minaccia di chiusura e di vendita. Insomma, c'è stato un progetto, tra virgolette, di riqualificazione dopo la tentata dismissione e delocalizzazione verso Palmiro Togliatti, quindi verso la Tor Sapienza Quarticciolo, e per farne insomma, rendita fondiaria, insomma, farete tre palazzi, sempre questi tre palazzi che qui in qualche modo devono essere localizzati. Ed è proprio significativo che siamo partiti con questo discorso dalla pubblicizzazione del servizio, con il primo deposito importante della città questo, e poi, mentre negli anni 2000 la vicenda si voleva chiudere con la privatizzazione in qualche modo del servizio stesso e la vendita di quello che è stato un patrimonio, insomma, poi di tutta la città. E niente, lascio la parola a Luciano Villani e, a proposito insomma di periferia, e andiamo ancora un po' più là sulla direttrice Casilina, ci spostiamo al di là insomma dei quartieri, dal quartiere Prenestino. Allora, io vorrei cercare di dividere il tempo che ho a disposizione in due parti per parlarvi un po' della storia di questa fabbrica, la Breda, e un po' della storia degli operai della Breda. Più che della storia, cercherò di fare delle osservazioni sulla composizione operaia e sulla mobilità operaia. Allora, la Breda è già prima della Grande Guerra una realtà molto significativa, importante del panorama industriale italiano, e grazie alla guerra, cioè sull'onda della guerra, si trasforma in un grande arsenale militare che è in grado di rifornire la nazione in armi di ogni tipo di materiale bellico. La guerra finisce e all'indomani della guerra la Breda decide di creare un'organizzazione per lo studio e la fabbricazione di armi portatili. Questa decisione porta questa società, che è una società milanese, ad aprire due stabilimenti nel 1924, uno a Brescia e uno a Roma. Si tratta di due stabilimenti che nelle linee diciamo programmatiche dell'azienda sono considerati un'unica unità produttiva, due stabilimenti gemelli, e nascono in due territori molto diversi per vocazione, no? Perché Brescia ha una forte tradizione nel campo dell'industria armiera, che risale addirittura indietro nei secoli, e Roma invece denuncia, diciamo, un certo grado di immaturità, se vogliamo, nell'insieme del comparto industriale. Un pregiudizio questo che un po' risente del confronto con le città industriali del nord, che Roma ovviamente non può reggere, e che diciamo è meno riferibile all'epoca che inizia con gli anni 30. Anche il fascismo, a partire dall'inizio degli anni 30, sembra mutare atteggiamento nei confronti dell'industrializzazione di Roma. Lo fa innanzitutto con delle iniziative così che hanno riscontro nella pubblicistica e sulla stampa. Roma industriale è il messaggio che vuole lanciare il fascismo, anche così per mettere a tacere quello stereotipo che vuole Roma una città improduttiva e parassitaria. In effetti qualcosa cambia nel sistema produttivo romano, anche da un punto di vista dimensionale, ma soprattutto per effetto del riarmo e dell'adozione delle politiche autarchiche. Fatto sta che nei licenziamenti industriali della fine degli anni 30, quello del 1938, quello del 39, il comparto industriale romano vede ormai un numero consistente di aziende che ha un numero di addetti superiore alle 1000 unità. Tra queste c'è appunto la fabbrica d'armi Breda, anche ovviamente oltre alla Viscosa. Sono, diciamo, insieme al Poligrafico dello Stato e altre aziende, al di là di quelle dei servizi di cui si è parlato fino adesso, le realtà più importanti del panorama industriale romano. Questa fabbrica Breda come nasce? Diciamo che inizialmente si tratta di capannoni del Regio Esercito che vengono presi in affitto dalla Breda per sbrigare una commessa, un ordinativo di 100.000 fucili da parte del governo greco. A spingere per questa commessa c'è anche il governo italiano, che è molto interessato affinché si apra una fabbrica d'armi da queste parti, comunque in territorio centrale. Infatti il contratto d'affitto per questi capannoni, che si trovano a Via Flaminia, il contratto d'affitto prevede che le spese per l'affitto siano stornate della metà qualora si fosse aperto un nuovo stabilimento sotto la linea del Po, uno stabilimento di armi. La Breda in realtà, diciamo, crede di poter sviluppare un rapporto più duraturo col governo greco, ma il rapporto si limita a questa partita dei 100.000 fucili, e quindi già nel 1929 si prospetta la chiusura per i capannoni di Via Flaminia. Se non che nel 1930 alla Breda arriva un altro ordinativo, questa volta 10.000 mitragliatrici ordinate appunto dal Regio Esercito. È il frutto di un concorso molto importante che molti anni prima era stato indetto dal Regio Esercito per dotare la fanteria di una nuova mitragliatrice. E questo concorso, il concorso di Civitavecchia, lo vince la Breda, riuscendo anche a scalzare la concorrenza della Fiat. Cosa dice però il contratto per la fornitura di questi 10.000 mitragliatrici? Che una parte di queste mitragliatrici devono essere prodotte a Roma, in Via Flaminia. Quindi ecco che si vede come il ruolo dello Stato sia stato decisivo per questa attività produttiva. Inizialmente lo Stato preme affinché la Breda assuma la commessa del governo greco e poi, diciamo, garantisce la continuità produttiva dello stabilimento. con l'invasione dell'Italia ai danni dell'Etiopia, gli affari iniziano ad andare anche bene per la fabbrica d'armi. Peraltro è allo studio la fabbricazione di una nuova mitragliatrice, la M37 calibro 8, e quindi si decide di aprire un nuovo stabilimento, realizzando finalmente i desiderata di Mussolini. Questo stabilimento si decide di aprirlo lungo la Casilina, a 15 km dal centro, in questo territorio, che è appunto quello di Torregaia, che conosciamo oggi, che è particolarmente idoneo non solo perché c'è un prezzo conveniente dell'acquisto del terreno, ma anche perché è un terreno già dotato di energia elettrica, di acqua, e ci passa anche il trenino delle ferrovie vicinali che porta a Termini. In modo febbrile si svolgono le attività di costruzione di questo nuovo stabilimento a Torregaia, viene effettuato il trasporto del macchinario da via Flaminia a Torregaia, mano a mano questo nuovo stabilimento entra a pieno regime. Ora, come si diceva prima, lo Stato, il suo ruolo fondamentale, e lo è anche in questa fase, sia perché si forma la seconda zona industriale di Roma, nei pressi di Tor Cervara, e la Breda riesce a ottenere le facilitazioni connesse all'implementazione della zona industriale, pur essendone tagliata fuori all'inizio, attraverso, diciamo, i rapporti positivi, insomma, con il governo. C'è un canale preferenziale di comunicazione che passa dalla segreteria personale di Mussolini e che, diciamo, funziona un po' come in modo da mettere in comunicazione la Breda anche con gli altri dicasteri. La Breda riesce a ottenere appunto che sia estesa la zona industriale per ricaderci e ottenere queste facilitazioni. Non solo, con appunto la guerra in corso, i contratti che riesce a ottenere la Breda la cautelano molto dalla svalutazione di questi impianti industriali deputati a fabbricare armi, soprattutto mitragliatrici. Perché? Perché sono impianti che, come potete ben immaginare, sono destinati a un sicuro incremento, ma per una durata molto limitata che dipende dalla congiuntura bellica. E quindi la Breda riesce a farsi pagare sempre, quasi per la totalità, insomma, il costo dei potenziamenti impiantistici che di volta in volta fa. Nel breve giro di un paio d'anni triplica le dimensioni dello stabilimento di Torregaia. In un primo contratto si fa rimborsare per il 75%, in un secondo successivo contratto addirittura chiede un rimborso del 95% delle spese di potenziamento. E, in realtà la Breda ha una strategia industriale che va ben oltre la fase della guerra. Non posso dilungarmi molto su questo, ma insomma già negli anni 40 pensa molto in grande, c'è un progetto faraonico praticamente di produzione, di allestimento di un ciclo verticale di produzione dell'acciaio. La Breda riesce a acquistare anche una fabbrica ad Ostia che diventa un'acciaieria, e oltretutto riesce a, diciamo, anche in connessione con la Viscosa, a formulare un programma in grado di legare i destini di Roma industriale a quelli di Roma al mare. Si fa un consorzio, una società anonima Forze Idriche Tevere, che vede appunto la SNIA di Marinotti già, quindi siamo nel 1900, dopo il 1940, tra appunto SNIA e Breda, che prevede che queste due aziende insieme assicurino l'energia sufficiente per dotare di energia appunto i loro impianti, ma anche per risolvere problematiche grosse dello sviluppo industriale romano, direi ataviche, cioè l'irrigimentazione delle acque del Tevere per renderlo navigabile e anche diciamo, l'irrigazione del bacino laziale, tutti progetti che sfumeranno con la guerra perché gli stabilimenti Breda saranno occupati dai tedeschi. Però insomma questo per dire che sia dal punto di vista delle sinergie attivate, sia dal punto di vista diciamo della progettualità industriale, dal punto di vista anche della capacità di penetrare nei palazzi che contavano, cioè quelli del potere, la Breda insomma era sicuramente una realtà molto molto importante. Ora, gli operai della Breda, io mi sono servito di tre registri che raccolgono le informazioni sulle dismissioni effettuate da questa azienda per incasellarle in un foglio di calcolo e i dati riescono a darci dei risultati stimolanti per capire un po' appunto la composizione, l'occupazione, la mobilità, una serie di caratteristiche di questa classe operaia della Breda. E questi registri appunto tengono conto sia dei licenziamenti effettuati dall'azienda sia delle dimissioni volontarie del personale. Cosa ci dicono questi numeri? Io intanto una prima fotografia che si può fare risale al gennaio del 1936. Diciamo che c'è una coerenza di dati per cui il periodo che è preso in esame va dal 1936 al 1943, che poi è il periodo diciamo di espansione vissuto dall'azienda, quello che coincide con l'espansione degli organici, dei fatturati, della produzione. Questa istantanea, questa fotografia del gennaio 36 ci dice che in azienda ci sono 2.199 posti coperti, perché diciamo c'è una differenza tra addetti che circolano e transitano all'interno della fabbrica e i posti occupati. Spero poi di riuscire anche a chiarirla questa cosa. Ci sono comunque 2.199, quasi 2.200 occupati. Il 72% di questi lavora da meno di 2 anni. Un 18% è stato assunto a partire dagli anni 30 e è sopravvissuto ai licenziamenti che si fanno in quegli anni, e una parte minore, il 10%, ha diciamo, un rapporto di lavoro che dura da più di 5 anni. Cosa ci dice questo? Ci dice, lascia intendere questa iniziale istantanea, che c'è un'anzianità di servizio piuttosto bassa e che probabilmente c'è anche un forte ricambio di personale. I posti di lavoro occupati arriveranno nel terzo trimestre del 1942 a quasi 6.500, quindi la Breda in quel momento è davvero insomma la realtà a maggior concentrazione operaia della capitale. In realtà però in questo arco di tempo di operai ne circolano molti di più, sono più di 14.000. Questo perché c'è un forte andirivieni, insomma, un forte avvicendamento di operai agli stessi posti di lavoro. Per questo prima parlavo di posti di lavoro coperti, perché nelle statistiche generalmente, ovviamente, nelle statistiche sull'occupazione, non si tiene conto dell'avvicendamento continuo che a volte c'è nei reparti di queste fabbriche. Ed è una questione che è stata inizialmente potuta studiare proprio grazie al recupero degli archivi aziendali, come quello che si trova qui in questo luogo, insomma. Ora, cos'altro si può vedere di questi operai? Ma anzitutto ci sono delle caratteristiche importanti, ad esempio la presenza di donne, molto forte. Se noi consideriamo quest'arco di tempo 1936-43, oltre il 41% delle assunte sono donne. E sono percentuali di un certo riguardo, anche se confrontate con altri casi aziendali oppure con le percentuali rilevate dal Commissariato per le Fabbricazioni di Guerra negli stabilimenti ausiliari. Quindi la presenza della Breda catalizza un'offerta di lavoro soprattutto di giovanissimi e donne, magari alla loro prima esperienza lavorativa, ovviamente anche di operai, e lo vedremo, operai insomma adulti. dal punto di se noi guardiamo le fasce d'età, vediamo appunto che a un certo punto nel 1940 c'è un'importante variazione, perché le fasce d'età femminili, che fino a quel momento di più avevano varcato le soglie dei reparti, avevano iniziato a lavorare alla Breda, cioè quelle dai 30 ai 39 anni e quelle dai 20 ai 24 anni, cominciano a calare e sono invece assunte in maniera massiccia le giovanissime, quelle che hanno meno di 20 anni. Ora, il fatto che molti giovani siano assunti la Breda è una questione che non dipende tanto dal genere, ci vanno sia tanti giovani uomini sia tante giovani donne. C'è però una differenza tra uomini e donne, cioè mentre appunto si vede questo abbassamento dell'età della manodopera femminile, gli uomini invece nel giro di qualche anno vedono la loro età media si alza. Questo perché con l'incalzare della guerra, il progredire della guerra, diciamo che le fasce d'età maschili dai 20 ai 29 anni declinano, sono più soggette al richiamo alle armi, al militare, e soprattutto gli operai adulti professionalizzati possono invece far valere la loro abilità, il loro essere ricercati, perché rappresentano ancora l'ossatura più importante della manodopera, una manodopera qualificata, molto abile, esperta, che è ricercata proprio perché c'è una certa carenza di manodopera qualificata e specializzata, anche denunciata dalle autorità. Quindi la mobilitazione bellica mette in gioco sia forze nuove, molto giovani, che sono la diretta espressione della mobilitazione bellica, ma comunque rimane molto importante il ruolo anche degli operai adulti professionalizzati. Ora, com'è stato possibile che la Breda incamerasse, diciamo, queste forze giovani e dunque manodopera dequalificata, manodopera generica? È stato possibile grazie alla semplificazione del ciclo produttivo che negli anni si è riusciti a avere in fabbrica, grazie anche a un'impostazione più razionale dei criteri, diciamo, d'officina. Anche grazie a del macchinario nuovo, macchinario speciale, macchinario appunto automatico o monouso. Non abbiamo purtroppo la possibilità di valutare appieno la consistenza numerica, l'entità di questo macchinario speciale, ma ce ne rendiamo conto perché c'è davvero, davvero molto folto è l'ingresso di questa manodopera dequalificata, in particolare guida macchine e addetti macchine. Le guida macchine sono quasi tutte donne e gli addetti macchina uomini. Gli operai qualificati e specializzati però mantengono ancora un ruolo molto importante. Se però fino al 1938 rappresentano oltre il 38% della manodopera, da quel momento in poi cominciano a calare fino a arrivare a attestarsi intorno al 30%. Cosa è successo? A compensare questo calo di operai qualificati c'è una figura che si impone come una figura nuova ed è una figura chiave per comprendere i processi di semplificazione del lavoro, che è il manovale specializzato. E oltretutto c'è anche una immissione grande, come dicevo prima, di giovani e dunque di apprendisti, che sono spesso utilizzati come operai già formati, come operai finiti, insomma. Ecco, è importante appunto ancora il ruolo di questi operai qualificati, dicevo. Questi operai qualificati attrezzano e regolano le macchine complesse, queste macchine automatiche, che poi sono demandate appunto alle donne guida macchine o agli uomini addetti macchine, i quali eseguono solo un'operazione delle tante che servono a trasformare il pezzo grezzo in pezzo finito, e la eseguono in modo continuativo, rifornendo la macchina e controllandola. Quindi ci sono squadre molto abili di attrezzisti che preparano la macchina, l'attrezzano e la regolano, e poi manodopera dequalificata che, diciamo appunto, sorveglia la macchina e la conduce. Ecco, le donne, dicevo appunto, sono tutte assunte come operaie guida macchine. In pratica in questa categoria il 96% sono donne e appena il 3,5% uomini. In generale però le donne vengono assunte in questo arco di tempo abbiamo il 72% come operaie guida macchine, il 21% anche come collaudatrici, secondo, diciamo, un lavoro che si poteva fare con il metodo del cosiddetto passa e non passa. Avete presente un calibro, ad esempio? Ecco, per misurare e collaudare un pezzo si faceva appunto questa operazione del passa o non passa. Le donne poi erano anche assunte nei reparti come messapuntiste, come bobbinatrici, come addette al tiro, nei reparti di brunitura, anche se in parte molto minore. Diciamo che complessivamente, anche per la Breda, così come per altre situazioni lavorative, viene confermata diciamo questa tendenza di utilizzazione del personale femminile solo entro determinate mansioni, e cioè in questo caso dentro soprattutto i reparti di produzione in serie e nei servizi, cioè le donne sono anche assunte come cuoche, addette al nido, alle pulizie, telefoniste e via di seguito. Neanche con la guerra quindi riescono a ottenere mansioni di tradizionale pertinenza maschile, se non forse come guardiane, perché c'è un buon numero di donne guardiane che viene assunto proprio durante la guerra. E oltretutto le donne non hanno né avanzamenti di ruolo e né si spostano di reparto, rimangono generalmente confinate là nel reparto dove sono assunte. Ovviamente questa disparità di trattamento si riflette anche nel salario, che per le donne è molto più basso. Vado all'ultima questione, che è un po' quella che dicevo anche all'inizio quando ho fatto quell'istantanea, e quindi questa questione del tempo di permanenza al lavoro, la mobilità, che è la questione che più ha acceso il dibattito storiografico sugli operai nel corso degli anni Ottanta, perché si è pensato che appunto studiando questa questione della permanenza di tempo in fabbrica si riuscissero anche a scoprire, a illuminare tanti aspetti poco conosciuti della classe operaia di tutto un periodo storico, che è quello della prima metà del secolo scorso. Ora non mi dilungo tanto sugli aspetti di questo dibattito storiografico, vi dico però quali sono i risultati rispetto a questa ricerca riguardo la Breda. In generale, diciamo, l'87% della manodopera ha un rapporto lavorativo che dura meno di 4 anni e il 44% ha un rapporto lavorativo che dura meno di un anno. Quindi c'è un forte turnover, un forte ricambio, una forte instabilità lavorativa. In realtà, se noi questi calcoli li facciamo in un altro modo, cioè secondo alcune indicazioni che danno i maggiori critici dell'instabilità operaia, ovvero rapportandoli non all'universo complessivo degli addetti, ma agli occupati periodo per periodo, è un procedimento un po' complesso, ma insomma è così, si scopre che c'è invece un certo tentativo dell'azienda di assestare questa manodopera, cioè di come dire, aumentare i tempi di permanenza in fabbrica. È un tentativo che viene meno proprio con la guerra, soprattutto per effetto dell'immissione di questo personale dequalificato, che è molto più soggetto al ricambio, cioè a entrare e uscire dalla fabbrica. Questi giovani sono i protagonisti della mobilità, interpretano questa mobilità operaia sia in entrata che in uscita. Ora, che cosa ci porta questo a dire? Ci porta a interrogarci su quali possono essere i diversi percorsi alternativi alla grande fabbrica che fanno questi operai una volta che escono, anche perché attraverso l'analisi dei motivi di licenziamento si capisce che appunto in questi anni della guerra quella di andare via dalla fabbrica è soprattutto una decisione operaia e non tanto relativa a una politica di selezione del personale decisa dall'azienda. Ed è probabilmente tutto questo connesso alla particolare situazione di Roma in guerra, in cui si trova la città. La guerra, insomma, è un momento di forte rottura, sconvolge anche, se vogliamo, le tradizionali gerarchie sociali. C'è chi delapida immense fortune alla Borsa Nera, per esempio, e chi invece riesce a, magari attraverso la frequentazione di ambienti particolari, anche illeciti, ad arricchirsi in modo veloce con le occasioni date dalla guerra. Così come va considerato, Roma insomma è toccata da arrivi in continuazione di profughi e sfollati che cercano nella città eterna e del Papa una maggiore sicurezza e protezione, ma c'è anche il movimento inverso di gente che va via da Roma per cercare di recuperare, diciamo, no, le proprie tradizioni rurali per una questione ovviamente di rifornimento di generi alimentari. Ma soprattutto si può ipotizzare il fatto che a governare soprattutto l'universo dell'operaio romano sia non solo questa entrata e uscita dalla grande fabbrica, ma in generale l'intrattenimento di diverse relazioni di lavoro. Quindi è l'operaio tutto fare, l'operaio dai 100 mestieri. È un'ipotesi abbastanza suggestiva che probabilmente può essere anche spiegata per il caso romano con il mercato dell'edilizia, che fa un po' da cerniera tra i diversi lavori che può intraprendere l'operaio romano. È chiaramente, insomma, un pezzo di ricerca tutto ancora da fare, quindi ci si augura che possa essere integrato da altre ricerche in futuro.